nostro sogno è avere un condominio di oggettine. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione. Lo sappiamo che è così. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente. Lui, essendo religioso, non lo dice, ma lo pensa come noi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciani, io cambio i calzini ogni giorno e anche le mutande, sono normale? Con le solette antibatteriche puoi portare lo stesso calzino per 2 settimane. Lapo, Lapo, Lapo, nuovo idolo del mondo, presidente del mondo, Lapo il can, Lapo il can. Ragazzi, non esageriamo, non è che per forza uno deve fare l'elogio della cocaina e dell'andare coi trans, perché poi queste cose nel caso di Lapo Elkan si accompagnano a gravi problemi, per esempio adesso quello che è successo negli Stati Uniti, per cui piano piano piano molti ci dicono, molti dei nostri ascoltatori che tu consideri Parenzo dei miserabili, ci dicono viva Lapo Elkan, ma no viva, io dico nessuno tocchi l'ottimo Lapo. Tocchi, amico mio, hai chiesto 10.000 euro simulando il rapimento. Guarda, è un bravo ragazzo alla fine. È un ragazzo, ma poi non capisco perché tutta questa pubblicità, cioè, ma sarà libero di fare quello che anche gli pare? Anche di chiedere alla sua famiglia 10.000 dollari o 10.000 ma euro. Ma quello della sua famiglia, ma poverino, ma perché ha bisogno di queste paginate sui... Ma è un politico? È un imprenditore. Ma che c'entra, dai, ma quello è normale che se ne parli. È uno che si è fatto cocaina per 2 giorni interi. Ma adesso è arrivato il moralista Cruciani. No, al contrario. Ad alzare il ditino. No, assolutamente. Contro l'ottimo Lapo. Ma scusami, allora, tanto Lapo è un signore, un imprenditore di successo. Ma è anche un mio amico, io lo conosco, numero uno. Sto dicendo semplicemente. E allora, diciamo che c'è in atto una crocifissione di un libero cittadino. Perché sì, tale sì. È un libero che cittadino. Che va negli Stati Uniti a fare i cazzi suoi. Che in questo momento viene crocifisso. Per delle sue perché va a trans e pippa cocaina. Ma dove va? Sono fatti suoi, non è un politico, non è il signor Cosimo Mele. Adesso che c'entra il povero Cosimo Mele che era scomparso dalle cronache, lo stai rispolverando? Lo sto riesumando, ci siamo. Ma come diceva Gioacchino Genchi, ci siamo. Ma non ha fatto niente, povero Cosimo Mele, è stato pure prosciolto. Non si ricorda chi è l'ottimo Genchi, ci siamo. Come si dice in Sicilia, è un libero cittadino, sì. È un imprenditore, sì. È un bravo e anche simpatico ragazzo, un po' guascone alle volte, vagamente eccessivo, ma insomma chi se ne frega. Molto esibizionista, vabbè, poi. Ma non siamo noi come a dover tanti, giudicare. Come tanti. Perché merita queste paginate sui giornali? Vabbè, mettendo... Ma perché, amico mio, è il rampollo di una delle famiglie che un tempo governavano e dominavano l'Italia. Ma è un tema, che c'entra? In tutte le famiglie c'è sempre quello un po' più furbacchione, il malandrino, il bravo, il puttanino, e chi se ne frega? E dov'è il problema? Ma è un politico? È una notizia che ha rilevanza pubblica. Vabbè, adesso come? Sì, certo che ha rilevanza, non dire cazzate. Ma che rilevanza pubblica è di un imprenditore, di un ragazzo che si sa che è eccentrico e che si fa i papà. A me quello che colpisce è... Ma ha commesso dei reati? Beh, questo non lo so. Ha commesso dei reati? Non mi pare. Cioè, lo stai contribuendo a linciare un bravo ma ragazzo. No, figurati, è un mio amico. Tu devi capire che l'altra volta, quando successe il fattaccio del 2005, quello del trans Patrizia, no? Quello del trans Patrizia, in arte Donato Broco, il trans barese con cui Lapo si accompagnava nel 2005, e lui si rifugiò in America, in Arizona, a fare la disintossicazione, diedi un bigliettino al papà, che all'epoca collaborava con Radio 24, con delle righe, righe di scritte, no? Delle righe scritte, chiaro. No? Un bigliettino con delle righe sembra bigliettino, come hai detto. No, so, in questo caso, cioè, con alcune righe scritte, ma dici, con delle cose personali nei confronti di Napoli. Ma adesso il tuo affetto, però diciamo, no, chiudiamo la vicenda. Perché... Però aspetta, aspetta, ti faccio sentire prima delle cose. Ma non mi interessa, io. Quando si era congedato dall'Italia per andare in America adesso, a passare questo weekend. Lui aveva detto vado per lavoro, senti questa cosa. Senti. Ma sarà libero di fare quello senti, che vuole. Sì, anche di mentire, certo. Non ma è un parlamentare. Senti. Hi everyone. Today I'm traveling abroad. And I'll be going all over the United States of America and Asia. Because there's a lot of projects and development and many different things that will be done for the close future of Italian independence. Have a great day and see you soon. È bello, a lot of projects. A lot of projects. Ma a parte che ha un inglese ottimo, eccezionale. Vabbè, questo quindi. È cresciuto qua, praticamente è cresciuto lì. Parliamo di questo, parliamo dell'inglese di 2013, se non sbaglio. 2013, aspetti, faccio ascoltare questa cosa. Ragazzi, non usate la cocaina. Ecco, uno però dovrebbe anche evitare di fare degli annunci pubblici. Vabbè, poi, certo per punto. Carità, no, per carità, si può ricadere in un vizio, in una dipendenza. Figuriamoci. Cioè, ma io quello che mi fa incazzare, scusa se uso il termine incazzare, vabbè, mi dispiace. È un personaggio pubblico e si fa. Ma si non fa, è un personaggio pubblico. È un privato cittadino. Ma che vuol dire? È un personaggio pubblico, Davide, stai negando l'evidenza. È un ma, ma chi se ne posso dirti chi se, ma che rilevanza ha per la tua vita? Ma che vuol dire? Ma che cosa vuol dire? Se, ma... se scoprissimo un domani, faccio un nome a caso. Giovanardi. Ecco, lo sapevo. Volevo fare un nome, un che nome si a fa caso, di cocaina, no? Dici vabbè. No, con un trans. Uno dice, beh, amico mio, però tu difendi la famiglia e poi ti trovi con un travone. Ti fai incappettare. C'è qualche problema, no? Perché chiedi i voti per difendere i cattolici, poi sei contro la famiglia. E poi ti fai inchiappettare da un travone. Vabbè, io non ho detto questo. Se poi ti fai trovare con un travone, dico se, sì. Poi già quello mi ha fatto causa una volta, non vorrei mai. Dico se, quella diventerebbe una notizia. Ma che il signor Lapo Elkan, che per natura è eccentrico, perché non mi pare che sia continui altro, a cadere nella tentazione, che gli piace, gli piace incontrare dei trans, farsi inchiappettare. Io non voglio neanche sapere perché non mi interessa. A me interessa. A me interessa sapere se i suoi prodotti sono interessanti. No, e su questo lo valuto, non sulla allora, non usate privata. La cocaina, disse. È non... un'immondizia che si parli di questa cosa. Non è vero. Una violazione della libertà della persona. È un personaggio pubblico. È un personaggio pubblico e ti no, prendi. È un personaggio, non ha nessuna... Ma come no? Il fatto in sé non ha alcuna rilevanza. Cazzo vuol pubblica. Dire? Non è che i personaggi pubblici sono solo i politici. Che minchia dici? Dai, no, su. Ho capito, ma non ha rilevanza. Fammi sentire questa cosa. Fammi sentire, fai sentire questa cosa che è divertente. Vabbè, fai quello che vuoi. Non lo auguro manco al mio peggior nemico quello che mi è successo. Non vi suggerisco di andare verso determinati mondi che poi vi portano ad essere qualcuno che non siete. E per questo lo dico in parole molto chiare, non vi suggerisco di andare a consumare cocaina come l'avevo consumata io tempo addietro. E questo non ve lo suggerisco per un motivo molto semplice e banale, è che porta tutto ad accelerarsi e nell'accelerarsi vi porta a fare errore, a farvi del male. Lapo e Lucci, una coppia che fino a qualche tempo fa era praticamente fissa alle Iene, eh? Poi adesso quell'altro se n'è andato dalle Iene, per cui... Ma ben oltre il cappello pandan, Lapo, tu vieni considerato anche una persona che lancia delle mode. Il vero grande successo della moda di Lapo è stato un altro. Lapo è stato il primo in Italia a lanciare una moda. Ecco, ma cosa ci trova un uomo in un trans? Io guarda, di queste cose qua, come di tante altre, oggi non sono qui per parlarne. La vicenda Marrazzo un po' ha richiamato anche la tua vicenda. Oggi non è né il no, momento però questa né moda tempo. Ha preso piede e si è molto diffusa. Molti uomini vanno, per esempio, con i trans. Ma non c'è niente di male, è una cosa sana e normale. Però molti si chiedono perché ciò accade. Ecco, cos'è che muove un uomo che cerca legittimamente qualcosa nel transessuale? Guarda, io con tutto il rispetto e tutta la stima che ho per te, oggi sono qui per altro. No. Ragazzi, comunque, diciamo la ragione Lapo. Ma sì, vabbè, certo che c'aveva ragione, poi decide di non rispondere ed è legittimo non rispondere. è normale che uno abbia a un certo punto voglia di andare coi trans. Nessuno dice il contrario. Però se sei un personaggio pubblico, come lo è il signor Lapo Elkan, e ti fai pizzicare, in più fai un finto, ti inventi un finto rapimento, chiedi soldi, tu dici no, è un fatto privato. È un fatto pubblico, c'è poco da fare. È un fatto pubblico. Ma dov'è? Io questo che è ti chiedo, dov'è l'interesse perché pubblico? Perché è un protagonista della vita pubblica italiana, perché gli Agnelli, gli Elkan sono protagonisti della vita pubblica italiana, una cosa che riguarda. Ma non gli mi pare che abbiano nessuna carica elettiva. Ma che vuol niente. Dire? Non è che ci sono solo quelli, ma tu restringi tutto al Parlamento. Questi qua non contano un cazzo in Parlamento. No, io richiedo... Conta più Lapo Elkan di Giovanni. No. Guardi nella vita tua, nella tua vita. Io chiedo, ma infatti però è una malattia questa cosa di segnalare cosa fa Lapo a casa sua. Fermo lì. Ma quello che c'entra, quello è perché si fa scoprire. Cioè, è perché si fa scoprire con queste minchiate che fa. Ma è una non notizia, riguarderà la sua famiglia. I miserabili che ci ascoltano oggi, cosa gliene frega di sapere? Ma gliene frega a tutti. Se vai nei bar, gliene frega a tutti. Lapo è campizzicato col trans, chiede riscatto alla famiglia, $10,000, le puttane, la cocaina e dai. Vabbè. Ed ora Donald Traffico. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presento La Zanzara. Tu perderai la stolta battaglia contro il popolo padovano, o David Pavenzo. Certamente c'è. Parenzo, stai negando l'evidenza. È stato anche arrestato. Dunque, più notizia di quello. È stato arrestato dalla polizia, poi rilasciato su cauzione. Arrestato perché si è inventato questo finto rapimento. Ma dai, su, ma stai negando veramente l'evidenza che sia una notizia. Tutti si accaniscono. È stato arrestato dalla polizia americana perché si è inventato un rapimento, il signor Lapo Elkan. E dai, su. No, ma scusami, riguarda la sua vita privata, ma che cosa vuol dire? È un personaggio pubblico. La sua famiglia è una delle famiglie più importanti d'Italia. Ma è... non ha nessuno, a parte che lui fa un altro business rispetto al fratello. Ma cosa c'entra? Ma voglio dire, le notizie hanno un impatto, se hanno una rilevanza sulla nostra vita. Lì non mi pare che ci sia nessuna rilevanza. Ma cosa vuol dire? Ma che senso ha? Le notizie sono solo quelle che decidi tu, sono solo le scoreggia che dice un politico. Ma che dici? Dai, no, mica solo quello, certamente. Ma mi pare una enfasi, come dire, eccessiva rispetto a un ragazzo che sappiamo che è un simpatico, eccentrico. Senti, e che senti, fa una vita così, senti come ha commentato il nostro. Ma io mi farebbe notizia se dicesse divento prete. Ecco, sarebbe una notizia. Dice, allora, senti come ha commentato questa cosa di Lapo Elkan, Carlo Alvino, il mitologico Carlo Alvino, grande speaker delle radio napoletane, commentatore del Napoli, eccetera, eccetera. Carlo Alvino, ragazzi. Matto, siamo alla follia, senti. La classica formazione juventina, no? Perché è figlio di quella famiglia e quindi la simulazione. Lui pensava che fosse in Italia, dove la simulazione gliela fanno passare, a quelli là. E invece negli Stati Uniti la simulazione nella Major League, ecco, nella Major League. La simulazione è fallo, in questo caso è fallo da dietro. Invece la cosa incredibile è che alcuni politici abbiano sfruttato questa cosa per fare propaganda a favore del no. Ora, come sapete, a me non me ne frega niente di sì, di no. Dovrei dire come voto, ma ho delle ragioni per il no e delle ragioni per il sì. Dunque, molto probabilmente non voto nulla, non voto niente, niente. Allora, la cosa fondamentale è questa. Ci sono alcuni del no che dicono Lapo si era espresso, come è normale che sia, no? Dice l'Italia deve andare avanti, eccetera, eccetera, a favore del sì. Allora, sia Salvini che Gasparri hanno detto ecco Renzi a chi si accompagna, a questo che si è fatto di cocaina, magari manco può tornare in tempo in Italia a votare. Ma tu ti rendi conto o no? Mamma cioè, mia. Ti rendi conto o no? Che adesso, pena. Amico Maurizio, te lo dico, ma che bisogno c'è di mettere che in mezzo, pena, di mettere in mezzo pena. Lapo che ha detto che forse vota sì per attaccare Renzi? Ma dai, su. Che pena. Federico, provincia di Roma, vai. Ciao a tutti, buonasera. Dimmi. quello che volevo dire io è che la vera notizia non è né il trans riferito al Lapo e né la droga. Il dramma di Lapo è che ha finito i soldi, sta scannato come pochi. Ma no, ma l'ha finito lì in America, perché chissà, avrà delle limitazioni, gli hanno dato delle limitazioni, pare che ma fosse senza pare che gli appartamenti a New York. Quello appunto ha finito i soldi. Io ma vorrei organizzare una raccolta fondi per garantirgli il mantenimento dei trans e della coca almeno fino a fine anno. Ho capito, amico. Lo so che tu vuoi fare ironia su questa cosa qua, ma credo che ti sbagli su questo. Non poteva ritirare quei soldi, sembra che le due persone che l'accompagnano, che hanno a disposizione le carte di credito, non fossero negli Stati Uniti, eccetera eccetera, per cui nessuna, non ha bisogno di raccolta fondi. Guarda, forse c'è qualcuno che gli mette dei limiti, questi limiti sono stati superati, chiedeva più soldi e si è inventato questa roba, almeno questo sappiamo. Poi magari è successo tutta un'altra cosa. Daniele, visto che è amico tuo, chiamano. Ma che chiama? Amico mio, sì, lo conosco, amico è un'altra cosa. Daniele Milano, io non sono amico di nessuno. Daniele, dai. Pronto? Dimmi. Oh, buonasera, grazie, vi ascolto tutte le sere. Dai, forza. Però Parenzo, se non ammette che ha difeso l'Apo giusto per fare dello spettacolo, è un pirla di prima categoria. Ma su questo, scusa. Non c'è nessuno spettacolo, dico semplicemente che mi pare il clamore dato a questa non diciamo cazzate, l'Apo è una persona di spettacolo, io vorrei sapere ma che spettacolo? Quante persone normali sono presenti al box della Ferrari al Gran Premio di Monza. Vabbè, ma chi se ne frega, scusa, quella è sua, no, è della sua famiglia. Pubblico, e lui deve rispondere della sua immagine. E allora? Questa è un'immagine da coglione. Ed è indifendibile. Ma scusa, no. Quale immagine deve rispondere? Su questo, scusa. Ma chi sta scherzando? Su questo, scusa, Daniele, su questo non sono d'accordo. Che cosa dovrebbe dire? Che cosa è indifendibile su cosa? Non ho capito. Perché lo attacchi? Perché si fa di cocaina? Perché si fa di cocaina e va a transessuali? Non ho capito. Questo non fa un lavoro normale. E perché inganna, vuole ingannare la sua famiglia? La sua immagine. E quindi risponde. Ma quello sono cazzi suoi, risponde per se stesso, per le sue aziende. Va, no, andrà fallito se la gente non compra più le sue cose o se la famiglia lo disereda e lo caccia via. Ma sono affari suoi. Qual è l'immagine che deve difendere? Per chi la deve difendere questa? Per se stesso? Ma lui sta sputtanando l'immagine dell'Italia. Ma quale Italia? Ah, tu dici perché comunque. Aspetta, però ti sta dicendo una cosa interessante, Daniele. Daniele sta dicendo. Sta delirando. No, sta dicendo però una cosa interessante. Siccome lui si propone, io prendo sempre qualcosa di buono che c'è degli ascoltatori, tu li attacchi sempre a sprombattuto. Daniele sta dicendo una cosa di interessante. Cosa dice? Siccome lui si propone con i marchi che hanno la bandiera dell'Italia, giusto, Daniele? Io cerco di trasformare quello che hai detto. Italia. Sugli arredamenti che fa con la 500. Italia independent, l'Italia qui, l'Italia là. Poi risulta, questa è una cosa interessante che da valutare, cioè risulta che pippa cocaina, va con i transessuali, cose che per me sono legittime, però per un certo tipo di Italia non sono affatto legittime. E in più finge un rapimento perché gli sono finiti i soldi, chiedendole alla sua famiglia, che invece gli manda la polizia a New York. Beh, l'immagine dell'Italia è rappresentata. Se ti sta bene così, che l'immagine. Giusto, Daniele, sto interpretando quello che dici tu. Assolutamente. Parenzo, se ti sta bene l'immagine dell'Italia, che sia rappresentata. Ma quale immagine dell'Italia? Lui così si presenta, scusami, così si presenta. Si presenta ma, lui, ma non c'è per niente l'immagine dell'Italia con i prodotti che lui fa, la gente sul Daniele. Ha ragione, su questo ha ragione Daniele. Siccome lui mette la bandiera dell'Italia, Daniele, l'immagine. È un poveretto, Daniele. È un poveretto, Daniele, sei un poveretto. È invidioso perché lui manco i trans lo vogliono. Quindi è invidioso. Daniele, sei invidioso dei trans che hanno. Posso aggiungerne un'altra? Io non sono uno che. Sei invidioso che vai coi trans? Sei invidioso che vai coi trans o no? Ma figuriamoci. Ti fai di cocaina pure tu? Ma no, ma faccio della farina, no? Della cocaina. Aspetta un attimo, aspetta, ho il giornale radio, poi ti richiamo. Parenzo, la maggioranza silenziosa non esiste, stai sul culo a tutti. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Sono al sasso e penso a te, sto cagando e penso a te, sulle mutande scende la goccia e penso a te. Non so perché ti sto ascoltando. mi stai distruggendo. Fortuna che ogni tanto passa Radio Maria. Che trasmissione di merda, che trasmissione di merda, che trasmissione di merda. Parenzo lo zombie, Cruciani lo zozzo. Che trasmissione di merda, che trasmissione di merda, che trasmissione di merda. Parenzo lo zombie, Cruciani lo zozzo. Andatevene a fa' in culo. Allora ragazzi, adesso torniamo sull'Apo, adesso torniamo sull'Apo, caro Parenzo. Lo sei fissato? No, sei. Ho due cose da dirti. Una è molto veloce. Ma come? È un miserabile se uno va a prostitute e le foto sui giornali e le multe e la moglie che deve essere informata e i parenti che devono mettere alla gogna. E ora che l'Apo va a trans e non è una novità e tu dici... L'ottimo Lapo! L'ottimo qui... Lapo, ma sì, ma effettivamente è a... Dai, che ne sai che quella là che ha pagato carissimo, quel no, transgender, come dicono i giornali, transgender di 29 anni con un pisello grosso come una casa, sfruttata da qualcuno? Questi dettagli non li pare sappiamo di sì, e non pare mi interessano. Di sì, pare io di dico sì. Semplicemente, come ho detto, non c'è nessuna contraddizione, che un conto è combattere la prostituzione di strada dove c'è lo sfruttamento. Ma che ne sai che non è sfruttata questa qua? Ma che dici? Il fatto che qualcuno si porti a casa una amichetta la transessuale va bene, quella chiamata per telefono a $5,000 perché c'ha il pisello lungo può fornire anche la cocaina, va bene e non è sfruttata, ma dai, su. Lì mi pare che ci sia un mercato libero delle escort, quindi va benissimo. Ma che mercato libero? Ma di che stai parlando? Non è vero, non è mica legalizzata la prostituzione in America, mi è uguale come in Italia. Tu puoi chiamarti tranquillamente in albergo, quella sì, in alcuni stati, in alcuni stati la coperta, perché tecnicamente nessuno di ma anche se lo fa in Italia nessuno non è mica un reato. Non mi pare che sia, che non c'entra niente qui lo sfruttamento. No, tu hai due pesi e due misure. L'Apo è ottimo, l'ottimo Lapo. Quello che va a puttane per strada, il vecchio che si deve... Giudichiamolo per i suoi vestiti, giudichiamolo. Ma come, per il vecchio, suo marchio. E il vecchio che va per strada a beccarsi la nigeriana, tu lo vuoi mettere in croce? Ma il vecchio è un maiale. E invece quello invece non è un maiale, Lapo, quello, che si fa chiappettare dai trans. Ma il vecchio che va e sfrutta la poveretta. E dai, è uguale, anche questo. Questa magari è una poveretta, multato, anche questa qua Lapo. Magari è una poveretta. Ma infatti mi pare che la famiglia sia stata avvisata, quindi non è la famiglia avvisata dallo stesso Lapo, che vuol dire? Dallo stesso Lapo, certo, è stato avvisato, diceva, sono qui, sono finite le scorte, mi hanno rapito. Mario da Brescia, dai Mario, chi c'era prima? È ritornato quello? Che è Daniele, chi era? No, Daniele, sì, Daniele, dai, allora... No, volevo concludere dicendo una cosa che mi ha fatto tornare in mente quello spezzone con Luci che avete mandato prima. Io sono uno che paga il canone senza troppi problemi, anche se avrei molto da dire. Ma da qualche mese, da quando sento ancora in servizio, seppur dal Medio Oriente, Marrazzo che parla, dopo quello che ha combinato, io avrei voglia di non pagarlo più il canone. Vabbè, ma adesso, cosa ha fatto? Adesso Marrazzo andava con i transessuali. Oltre ad essere un personaggio pubblico con un'etica andava con i transessuali, ragazzi. Ma anche un politico. Ma andava con i transessuali, è uscito fuori dal processo. Non ha commesso reati. Ha combinato con Auto Blu e tanto di scorta. Ma lascia perdere. Di non lavorare più da nessuna parte. Ma infatti ha avuto si è dimesso da presidente della Regione Lazio. Sì, ma continua a pagarlo come giornalista. È un giornalista della televisione pubblica. La televisione pubblica non è che può cacciare uno semplicemente perché andava, perché quando era presidente della Regione Lazio andava coi trans con l'auto blu. Abbia pazienza, Daniele. Non è stato accusato di nulla. Non mi rappresenta più e merita di non lavorare più. Per tutta la vita, non può lavorare da nessuna parte. Cioè, alla RAI non può lavorare perché andava a trans con la. Ci sono delle buone vanghe da utilizzare. Non è necessario fare il giornalista. Cioè, non ho capito. Uno che ha fatto da presidente, non da quando era giornalista alla RAI, cioè non come. Non quando era pagato. Uno quando era presidente della Regione Lazio andava a prostitute, sempre. Adesso non mi ricordo come andava a finire il processo, facendosi accompagnare fino all'uscio di casa della prostituta, della trans, quello che ti era. Mi ricordo che lui era parte lesa in tutta quella vicenda. No, ma quella è un'altra vicenda, quella della cocaina. Era la cocaina, quella un'altra cosa. Non c'entra niente col suo ruolo di bravo giornalista inviato. Giudicatelo su quello, non sul resto. Secondo te non deve più lavorare lavorare, questo stai dicendo. Esiste una cosa che tutte le persone ormai non riconoscono più, che è un rapporto di fiducia. Vabbè, questo... una persona non ho capito, uno che va, uno anche se non lavorava come giornalista ma lavorava come presidente della Regione Lazio, uno che si fa accompagnare come mi sembra sia stato accertato in maniera definitiva dall'auto blu sull'uscio di casa di un transessuale prostituta, secondo te non può più lavorare pagato da noi? Sicuramente non nella televisione pubblica. Va bene, Mario da Brescia, ciao Mario. Sì, ciao Cristiano. Dimmi Mario, dimmi. Praticamente mi hai introdotto su quello che volevo dire. Sera è evidente la doppia faccia da culo senza buco di parente, insomma. Cioè, no, culo senza buco mi sembra strano, scusa, com'è la storia? No, ma parente è talmente sfigato che ha una faccia dal doppio culo ma senza buco, non ha neanche un buco. Non ho capito di chi parla questo poveretto qua. Di te, poveretto. Dice che hai un doppio volto. Talmente messo male che alla sette hanno preferito messo male e messo terra. Lei e io mi meraviglio che quel giorno i suoi genitori sono andati via dal cinema, sono rimasti a casa. Parenzo, sei messo male. Quanti anni fa è nato lei? Io? 5 anni fa, Parenzo. Quando è stato concepito lei? Quindi dammi del voi. Ma del voi, quando siete stati concepiti? Perché quel giorno, secondo me, se i suoi fossero andati al cinema sarebbe stato meglio. Esatto. Sì, ma prova a pensare se invece di andare al cinema... Invece sono rimasti a casa, come è noto, ma anche i suoi però hanno creato un danno, capito? E poi sono andati al cinema quella sera che ti hanno partorito. No, i suoi dovevano andare al cinema. Un buffone, sindaco di Padova, ma che cazzo stai a dire sindaco di Padova? Vabbè, quella è un'altra cosa, Mario, non ho capito perché secondo te è ipocrita. È ipocrita perché appunto un poveraccio, un vecchietto, pensionato che va a prostitute, siccome che non produce abiti firmati e non è famoso come Lapo, è un miserabile. Uno come Lapo bisogna guardare quello che fa. Allora anch'io la privacy eccetera, sì. Posso trasferirmi a Padova e se no, ho detto semplicemente che intanto il vecchietto, scusi, ma mi pare che lei non ha capito un cazzo, ma la cosa non mi stupisce. Il fatto che lei non capisca non mi stupisce. Quindi questo è un altro problema. Evidente, le consiglierò a Padova un ottimo motorino, la ringogliata. Parenzo, è il fatto che tu fai capire perché tu non hai un'idea di quello che stai dicendo. Io denuncio qua, io denuncio là. No, ma lei sta delirando. Io ho un'idea molto, molto chiara. Ma i tuoi genitori, ti rendi conto? Ho detto, non capisco quale sia. Stai zitto un attimo, sto parlando io. I tuoi genitori, ti rendi conto che fatica che hanno fatto per mantenerti gli studi e non hai preso neanche uno straccio di laurea? Simone da Rovigo. Ciao a tutti, grazie. Dimmi, vai, Simone, dimmi. Senti, questa sera stranamente mi trovo d'accordo con Parenzo. Dico stranamente perché... Ma perché cosa? Scusami, perché? Sul discorso Lapo. Ma ragazzi, ma che state a dire? Dai, su, ma... Ascolti, Cruciani, ma tutto quello che fa uno con i suoi soldi, capito? Saranno pure cazzi suoi. Se vuole farsi spaccare il fiocco o andare a... Spaccare il fiocco non è male come espressione. È un'espressione come dire, barocca quasi. Spaccare il fiocco. Scusi, saranno affari suoi, no, Cruciani? Ma questo nessuno lo mette in dubbio. Il problema è che Parenzo dice che è una cosa privata. Ma di che stiamo parlando? Ma condivido, perché anche l'ascoltatore che è intervenuto all'inizio, ancora prima del TG, ha capito, che dice perché Lapo rappresenta l'Italia. Ma che cazzo stai a dire? Ma certo, lui si... Lapo rappresenta se stesso, le sue aziende e la sua fottuta famiglia. Quindi, vabbè, siccome non sta spendendo del denaro pubblico, ma quello... che cazzo me ne frega, se va a transo? Vabbè, ma d'accordo, Simone, questo che... ci mancherebbe pure che spendesse a New York $10,000 pubblici per andare a trans e a ricattando, cioè fingendo un rapimento. Non è quello il punto. Il punto è che inevitabilmente è un personaggio pubblico che si presenta all'esterno, come giustamente ha ricordato l'ascoltatore all'inizio, che si presenta all'esterno come uno dei simboli dell'Italia che produce. Ma è lui che si presenta così. Lo fa in ogni occasione. Ma ragazzi, ma è così. Ma è il suo stile. Il suo stile è questo. L'Italia si presentasse all'esterno come un uomo dell'Opus Dei, chiaramente quello non lo può fare, naturalmente. Comunione e Liberazione. Allora, quando esce fuori un caso, voi dici: beh, guarda, uno di Comunione e Liberazione che si fa trovare in un festino con un trans e un po' di cocaina, non mi pare il massimo dei valori. Allora? Ma il signor Lapo non mi pare che abbia mai fatto mistero no, nella sua vita. Comunque vuoi leggere? Ti posso leggere quindi quello che hanno scritto? Ci sono, poverino. Mi pare che il danno lo ha già avuto perché i titoli della sua società oggi sono crollati in borsa. Allora, quindi ha avuto già un danno. Allora, anche Maurizio economico. Gasparri, i Marchionne e gli Elkan. Aspetta, i Marchionne e gli Elkan sono amici di Matteo Renzi e votano sì. Io voto no. Con la foto, sì, ma appunto, ma mamma non rientro, faccio tutta una tirata con l'Apo al telefono. Mamma mia, vabbè, ma Gasparri ormai. No, aspetta, non c'è solo questo, c'è anche il signor Salvini. Il signor Salvini, senti come infierisce il signor Salvini. Signor Salvini, l'Apo Elkan 15 giorni fa: sono orgoglioso che l'Italia abbia un premier giovane come Renzi che sta facendo il massimo. Io sono per il cambiamento, ma temo che purtroppo vincerà il no. Già, l'Apo Elkan voterà sì al referendum, sempre che poverino lo liberino e rientri in Italia in tempo per votare. Ma lo scandalo vero. Che la politica alla faccia di Lapo di cronaca. Io voto no, fermo lì. Lo sai che c'è? Non ce la faccio più. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Ragazzi, ma io è la prima volta che mi sento la Zanzara in diretta dopo anni. Ma veramente avete tutta questa pubblicità? Quello perciò l'Apo ha ripreso a drogarsi, perché voleva sentirsi la Zanzara. È impossibile, ma poi... Ah, siamo veramente al flop, veramente al flop. E lo so, amico mio, però è chiaro che noi campiamo pure su quello, no? Cioè sul carico della pubblicità, non è che ce la possiamo pigliare con la pubblicità, ce la prendiamo in maniera ormai quasi rassegnata, direi, Parenzo, no? No, io dico che ce n'è troppo poca di pubblicità. Sì, quello è vero, noi ce la prendiamo. Se ce ne fosse di più, guadagneremo sì. Tutti quanti di più. Ce la prendiamo in modo, direi, praticamente rassegnato con le interruzioni. Quello sì, quello sì. È fondamentale. Ma ormai sono rassegnato a questa cosa. Comunque, qua. Io dico anche la genialità, per tornare e chiudere il caso del mio amico Lapo. Genialità di quest'uomo che simula un sequestro. Cioè, sì, questo è geniale, devo dire, questo è geniale. Geniale, anche se. Sì, anche se poi qualcuno pare che l'abbia fregato. Secondo alcune indiscrezioni, tutto da verificare. Naturalmente lo hanno tradito, cioè la sua famiglia lo ha voluto punire. Sì, ma comunque c'è un accanimento nei confronti. Ma quale accanimento? È un personaggio pubblico, non rompere i coglioni su questo, dai. È una, veramente una minchia. Ma quale accanimento? Di che stai parlando? Un accanimento, ogni ma cosa non, che è vero, dai, non è vero, dai, vizi di Napoli, come chi se ne fa proprio, mi pare. Allora, Piero da Roma, sentiamo Piero da Roma, dai, Piero. Piero. Ciao ragazzi, buongiorno. Piero dall'autostrada, sono Piero, peraltro ci conosciamo, sono Piero Villaggio. Ah, come no, certo, mi avevano preannunciato che avresti chiamato perché stavi ascoltando. Ciao Piero, sì, Piero Villaggio, figlio di Paolo. Figlio di Paolo, certo. Sì, volevo permettermi di chiedere a Parenzo. Che sì. Reputo persona intelligente, non lo conosco, però scusami Parenzo, mi sembra una stupidaggine dire che Lapo non è un personaggio pubblico. Davide, no, è così, cioè, abbi pazienza, è un personaggio pubblico, tutto io, quello che fa. Premetto che rispetto tutta la famiglia Villaggio, tutta. Vabbè, ma che c'entra adesso? Ma non c'entra nulla. Dal padre, mai il figlio, la fila, tutti, li conosco tutti, perché lui non si ricorda, ma ci siamo visti una volta. Vabbè, dai. Ma questo è poco importante. Sì. Hai detto, amico mio, con il rispetto per le autorità politiche, civili e militari, una cazzata. Perché ha detto una cazzata? Ma ha ragione, è un personaggio pubblico, fa notizia a me... qualsiasi cosa faccia, anche se parcheggia male la macchina. Dai, non è... Provo ad argomentare. Scusa, interessa il no, no, però scusami, Piero Villaggio. Perché, scusatemi, vi interrompo, ma ragazzi, purtroppo, e questo io non voglio giudicare meno, ma nei bar non si parla d'altro. Sì, ma certo, non c'è dubbio. Dai, ma questo cosa c'entra? Ma non si parla d'altro. Sarà drammatico, ma è così. No, però. Ma scusa, tra l'altro Piero Villaggio è la dimostrazione plastica, sì. La dimostrazione plastica del fatto che addirittura da figlio di una persona conosciuta, la sua passata tossicodipendenza che lui ha raccontato. Ma non rendere pubblica lui, però. Ma no, ma lo si sapeva anche prima, c'è una cosa che. Ma ho capito, ma lui ha voluto poi giustamente. No, ma quella è un'altra cosa. Però anche lui, da figlio di un personaggio. personaggio pubblico, di un personaggio dello spettacolo, ha, diciamo, patito, è finito sui giornali, si sapeva piuttosto, diciamo, della platea di tossicodipendenti che c'erano all'epoca, giusto Piero? Ecco, cioè, appunto, vuoi o non vuoi, anch'io sono un personaggio pubblico, non sono nessuno, ma se faccio una cazzata finisco sui giornali. Beh, e poi certo, non posso arrabbiare che sto finito, cioè, sui giornali. Se trovano, per carità, ecco, non sì, succede perché ipotica, non succede, ragazzi, perché tu ne sei uscito. Mai ho capito, ma faccio una cazzata di un altro genere, qualsiasi, sì, qualsiasi cazzata, il figlio di Paolo Villaggio, io voglio o non voglio, è così. Ma figuriamoci la Poelcan, dai, ipocrita, ragazzi. Che stavi dicendo? Non ho capito, Parenzo, com'è che puoi giustificare ancora questa tua follia? No, stavo provando ad argomentare che tutto questo attiene semplicemente al gossip, che è un genere. Ma non è vero, non è vero, aziende quotate. Sto dicendo che il gossip è comunque un genere, diciamo, giornalistico. Scusa, importante. La Poelcan, aziende quotate. Vi interrompo, se mi permettete. Dimmi. Ma chi se ne frega se è un'azienda quotata, guarda che sia un prodotto buono, guarda il danno che gli hanno fatto, perché gli speculatori ora su questa roba qui. Scusami Parenzo, il danno se l'è fatto da solo, però, perché lui fa gara con Corona a chi fa più cazzate uno dell'altro, mi sembra che stanno a fare un torneo fra i due. E adesso io non mi permetto di giudicare nessuno. No, ma infatti, per carità, ognuno fa quello che vuole. Ognuno fa quello che vuole. Ma adesso scusami, facciamo un altro esempio. Se un produttore di formaggi, ma è sconosciuto, no? Non si chiama la Poelcan, se un famoso produttore di formaggi organizza dei festini e delle, ma chi se ne frega del, non è uno qualsiasi. Ma che me frega a me, dico, l'importante è che il formaggio sia buono, no? E quello non lo metto in dubbio, ma però non puoi negare che sia un personaggio pubblico. Infatti ne state parlando da un'ora e mezza. Io mi rifiuto perché è sbagliato, perché è gossip. Non è gossip, ma di che parli? È stato arrestato dalla polizia americana e poi rilasciato, il figlio di una delle più grandi famiglie italiane. Aziende quotate in borsa. L'ha arrestato la polizia per rapimento. Finto rapimento, no, cioè, per falsa testimonianza. Credo perché per procurato allarme. Sì, vabbè, adesso poi vedranno loro, non lo so, ecco, ma sì, ma certo, assolutamente è stato. Non possiamo negarlo, Parenzo. Ragazzi, su, poi, non so, può essere quello che vuoi, io non lo conosco personalmente. Mi fa quasi. Io, scusatemi, la stessa cosa, se vai a prenderti le registrazioni, la stessa, perché qui c'è l'archivio della Zanzara, quindi non è che dice Parenzo cambia versione. La stessa cosa la dissi sul signor Dominique Toscan. Quando l'ex presidente del Fondo Monetario Internazionale che andava a prostituire, non puoi dire che non sia un personaggio. Dai, no, dicevo che Dominique Strauss-Kahn andava valutato, ma non quello, per la quantità. Ma tu vuoi negare l'evidenza? Tu Berlusconi. Ma io non sto valutando quello. A che me non me ne frega niente delle aziende. Stiamo dicendo solo, esatto, che è un personaggio pubblico. Poi di quello che fa bene o male è un altro discorso. E no, ma c'è un'altra cosa che ha detto l'ascoltatore. Se stavi ascoltando Dominique Strauss-Kahn, aveva una rilevanza pubblica, perdere, perché era un incarico pubblico. Se stavi ascoltando prima, Piero, ti sarei sicuramente, non hai perso l'ascoltatore che ha detto. Lui, tra l'altro, si presenta all'esterno come uno dei simboli dell'Italia, chiamando. Ma non è vero, chiamando le sue aziende col tricolore, con l'Italia. Ma che vuol dire? Vabbè, non vuol dire niente. Uno si presenta. È così purtroppo, anche il nostro ex presidente del Consiglio, purtroppo, cioè, poi che può essere giudicato in un modo o in un altro, ma quando faceva alcune cose, alcune stupidaggini, certo, tipo le cornala alla foto di Rito, ma quello era primo ministro, o la cosa occupata, ma era primo ministro, certo, non faceva non dava una buona idea. No, ma io rifiuto il fatto di fare un unico frullato delle cose. Allora questo si presenta come me, come simbolo del Made in Italy, come simbolo dell'Italia. E quando tu ti presenti come simbolo dell'Italia, vero o, no, o falso che sia, viene presentato, eccetera, perché ma poi si chiama. Ma viene presentato per il fashion, per la moda. Ma non lo so, quando uno si presenta in questo modo e dopo. Per i suoi prodotti, non per quello che fa sotto le coperte di casa sua. Ma non è sotto. Ma non è sotto le coperte. Vergognati, imbiancati siete. Stiamo dicendo David un'altra cosa, giusto Piero, che lui nel privato può fare quello che vuole, il problema, allora, ma non è il privato, si è fatto, può andare a scimmie, può andare, può fare quello che gli si è fatto beccare, si è fatto beccare, cioè, cioè, si è fatto beccare semplicemente perché ha chiamato la famiglia chiedendo 10.000 euro, 10.000 dollari, fingendo un rapimento. L'ha fatto perché credo che 48 ore di sostanze di quel genere probabilmente gli è andato in pappa il cervello. Ma tu non hai mai fatto cose del genere? Non hai mai chiamato tuo padre chiedendo soldi? No, chiedendo soldi, inscenando. No, per fortuna no. Non, cioè, sei arrivato. Ero abbastanza fuori di testa, ma non a questo punto. Ma la cosa più folle che hai fatto qual è stata? La cosa più pazza che hai fatto? Beh, ne ho fatte tante, adesso non voglio stare qua a dire. Vabbè. Ciao, ciao Piero, ti abbraccio. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ah, Grucia, certo che sei proprio uno stronzo. La Zanzara. Allora, Vincenzo da Pavia, veloce, dai, Vincenzo. Ciao. Dimmi. Io volevo fare un grosso in bocca al lupo al lapo per la storia che gli è successo, perché anch'io ho avuto problemi. Sì, ragazzi, però problemi, sì, certo, tu sei stato cocainomane? No, ai livelli suoi, ma quasi. Ma a livelli suoi, che ne sai te a che livello è lui? Cioè, non... Cioè... Avendo tanti soldi diventa un problema enorme. Ma sicuramente può essere un problema enorme. Io ho conosciuto tanti, ma quello non c'è dubbio. Finalmente un po' di umanità, anziché sputare in faccia una persona che ha avuto un momento di difficoltà e far diventare questo un caso è disumano. No, ma non c'entra, ma stai dicendo delle cose folli. È un personaggio pubblico. Se tu ti fai di cocaina e vieni scoperto a farti di cocaina, vai a transessuali e in più. Ma ti sto spiegando che quello lì non ha un incarico di governo. Ma come, perché ma non chi se ne frega? Nulla? Ma non è che i personaggi pubblici sono quelli che sono solo al governo. Dai, Vincenzo, che volevi dire? Volevo dire che quando si è sotto effetto di quella roba lì non sei più tu. Non sei ecco, appunto. Ma questo lo sappiamo, ragazzi, lo ma so, che vuol come dire? Come sapete, non ho mai fatto uso di cocaina in vita mia, né mai la farò perché la roba mi spaventa. E quindi non me ne frega niente. Ho fatto qualche cannetta ogni tanto. Ragazzi, scusate, però, scusate, se tu vai in televisione dicendo, giustamente, una persona che conosco mi sta mandando questi messaggi, ma è quello che penso. Se una persona va in tutte le televisioni possibili immaginabili e dire il Made in Italy è il simbolo del Made in Italy. Aspetta. No, ma è vero, è così. È il simbolo del Made in Italy, i giovani, poi dice anche che non bisogna farsi di cocaina. Vabbè, ma quello lo dice perché ha provato a disintossicarsi, ma non vuol dire niente. No, ma non vuol dire, non lo sto crocifiggendo. Per me può fare quello che vuole, ma non puoi dire che non sia. Ma cosa c'è? Il Made in Italy con questo. E Made in Italy uno che. Made in Italy, poi vai a trans, cocaina e più fai un finto. Insceni un finto rapimento. Vittorio Sgarbi, buonasera. Ciao, Vittorio, dimmi. No, volevo dirvi una cosa pacatamente, perché il reato è simulazione di rapimento. Sì. Quindi c'è questa storia, però anomalie ci sono, la situazione è questa. Lui arriva e non va in un albergo, va in un appartamento di un. Exo però trans. Sì. Lì lui si trova e a quello che si capisce spende soldi in cocaina, vino, champagne, è stato lì un giorno e mezzo. Sì. I soldi con cui copre queste cose sono quelli del trans. Badiamo al fatto che il trans potrebbe essere di varie lussuria, sicuramente in forma, alto, dotato di cazzo. Vabbè. E allora che cosa capita? Pare che sia così. Ma no, la simulazione finisce. Questo gli dice o mi dai 10.000 dollari o non esci? Allora cosa fa? Veramente rapito, chiama i suoi parenti e dice datemi 10.000 euro, altrimenti non mi fanno uscire. Dov'è la simulazione? Nelle 10.000 euro. Non so, adesso, questo sarà la polizia. Sarà la polizia. Che è così, però. Ho capito, ma la polizia americana. Ok, è vero che la polizia americana aveva arrestato pure Strauss-Kahn, che poi invece. Il reato dice simulazione. Come se lui avesse finto con i suoi, invece no, come ogni vero rapito, è lì che ha uno che gli punta la pistola. Ma perché Vittorio è lui che poi ha ammesso di aver detto una bugia. Ma l'ha chiamata simulazione perché è un ignorante, in realtà era impaurito dall'uccello di questo o da qualunque altro strumento e per uscire di casa ha dovuto pagare il riscatto di 10.000 euro, che è un riscatto che non c'era neanche negli anni 20. Ma scusa, però la questione qui è un'altra. Parenzo sostiene che Lapo, c'è un accanimento nei confronti di Lapo, che in fondo no, non è un personaggio. Aspetta, fammi dire. Che così Vittorio poi dice la sua, ovviamente. Ma l'hai già detto, fammi. Io dico solo questo: se beccano Giovanardi con un trans, diventa una notizia perché. Ma come non improbabile, Vittorio? Scusa. Lui è un politico che parla di famiglia, dell'integrità della famiglia, e solo per la famiglia quella fatta. Vabbè, da ma uomo, ho capito, ma questo comunque è lo stesso. Questo ma qua no, è uno. No, è uno non ha mai fatto parlare di comunione e liberazione. Il caro Giovanardi è normale, l'hanno beccato della norma delle sue inclinazioni. Esattamente. Quindi che dice non prenderlo del culo perché i trans. No, anzi, lui lo prende nel culo, è contento, gli piace, ripete una cosa che sono cazzi suoi. Qui il reato non è prenderlo nel culo per la cocaina. è la simulazione, che però non c'è. Lui era veramente impaurito da questo nervoruto che gli diceva: o mi dai 10.000 euro o non ti faccio uscire. Quindi è chiarissimo. Vabbè, d'accordo, adesso questo sarà la polizia americana a risolverlo. La questione è una, è la questione, o la polizia americana. La vostra è di ordine morale, cioè una persona pubblica. È una persona pubblica che lo prende nel culo, anche Vladimir Virusuia è una persona pubblica e nessuno si stupisce che lo prenda nel culo, se lo prende nel culo. Ho capito che c'entra, però sono due cose. Non sarei nel dettaglio della suonatura. Sì, ma quello d'accordo, però se tu sei, scusami, se tu sei una specie di ambasciatore del Made in Italy. Ma cosa c'entra? Ma anche Valentino e anche Lagerfeld, cioè quelli che lo prendono nel culo. Ma ragazzi, va bene, ma figuriamoci, per me si può fare tutta la cocaina del mondo, ma non ti devi fare beccare se sei la Boecan. Non ti devi fare pizzicare la cocaina. Certo, pieno di cocaina, di marijuana, di transessuali col cazzo grosso. Però in più transessuale non è un elemento negativo. No, figurati. Ma questi elementi qui sono rilevanti per ma ragazzi, ma non è questione. Non è questione. Questa volta sembra stranamente più equilibrato Parenzo, però resta il fatto che l'unica cosa che gli è levata contro è simulazione, e la simulazione non c'è. Lui aveva un uccello dietro il culo e aveva un bastone e ha dato per soli 10.000 euro. Però, scusami, perché c'è questa attrazione? Perché c'è questa attrazione nei confronti del transessuale, secondo te? Irresistibile da parte di. Ma questo si può capire, cioè il fatto già che il transessuale non si tolga l'uccello. Vedi, hai parlato con Fball, li ho sentiti, che sì, ha detto, come no? Si è fatta 15.000 uomini, il 90% l'ha preso nel culo. Sì. Più di così, vuol dire che non andavano con la donna, ma andavano con questa terza figura sessuale. Assolutamente. Che ti fa provare desiderio. Anche tu ami il genere? Ma non ho nulla di contrario, però io tengo molto il mio culo, quindi sono al carico. Non ti sei fatto mai incappettare, non ti sei fatto mai incappettare. Posso utilizzarlo con un, perché io fui, come dire, tra quelli che ebbero un rapporto con la famosa Eva Robbins. Come no? Un rapporto di che tipo? Gli hai toccato l'uccello? No, sono passato da dietro. Ma l'hai incappettata tu? Cosa che è del tutto logica con un trap. Vabbè, quello è normale. Ma è logico che sia lui a mettertelo nel culo, no? Quello non l'hai fatto. Però l'ho fatto, ma il sesso orale l'hai fatto con un trans, no? Ma quello è uguale, sai, la bocca è uguale, quindi. No, tu se uguali. L'hai fatto tu. No, io no, tu neanche no. Quello. No, io sono un maschio arcaico. Tradizionale che ogni che tanto. È attratto dal mistero della, come dire, della bisessualità o della. E dunque hai voluto provare una volta la signora Eva Robbins, sì, diciamo. Però, E non solo, magari. No, direi di no, anche qualche altro caso ci sarà. Qualche altro caso, anch'io. Dobbiamo andare da Fball quando va in pensione. Perché? Ah, dici solo quando va in pensione? La vecchia teoria. Non è che possiamo pagare. Pagare non va bene. No, pagare mai. Questa è una regola universale, Parenzo. Pagare mai. Ma sai, se tu vai da Fball e non la paghi, lei ti rapisce, tu sei costretto a chiedere a Parenzo i soldi per uscire. Con l'uccello che hai Fball ti dice: oh, amico mio, dammi 10 che mi devi. Certo. Così è andata, così. Comunque, no, ragazzi, io dico semplicemente una cosa. La figa, comunque, sempre. Hasta la vittoria. Il nostro compagno, 35.000. A proposito, 35.000, capito? Questa è una cifra non confermata, però 35.000 per Fidel, amico mio. Basta una, pomeriggio. Questa è la propaganda del regime. Bellissimo, del regime comunista. È l'unica cosa che salva Castro, cioè il resto è stata una merda di uomo, una merda, un dittatore schifoso, incarcerava i gay. Ma qualsiasi figa un maestro. Beh, ragazzi, dai, su, cioè, genio assoluto. Ciao Vittorio, ciao ragazzi. Ciao, caro. La zanzara è come una droga, sai che ti fa male, ma continui a prenderla perché non riesci a farne a meno. La zanzara. Continua la lotta della Boldrini con la lingua italiana, quello le dice il presidente, lei ribatte, mi dica la presidente e quello, allora dico presidentessa, no, perché presidente è un participio, ma come stai messa? È un nome, è un sostantivo, il presidente della Camera, ma non è un participio, oh signore! Allora ragazzi, ragazzi, tutta l'Italia parla della cocaina, della droga, dei transessuali, scella poelcan a New York e del finto rapimento inscenato per avere $10,000. Sepolcri biancati. Ma che sepolcri biancati? Ma quale? Ma chi fa moralismo? Gentaglia, Gentaglia che fa moralismo inutile, Gentaglia. Dai, ma chi? Gentaglia, ma chi? Che vive di pruderie, che vive di annusare il letto di un imprenditore, di un ragazzo. Ma guarda che sei incredibile, sei il primo che vuoi mandare in galera o vuoi mandare falliti quelli che vanno a prostitute, adesso invece... Senza dubbio chi sfrutta la prostituzione. E quello ha sfruttato una prostituta che magari è sfruttata, una transessuale sfruttata con l'uccello duro, con l'uccello lungo, siano state ben oliate, siano ben felici di passare una sera con un rampollo, anzi spesso sono proprio loro che ma manco sapevano, manco sapevano chi era quello, la maglia frega. Beh, figurati, conosciutissimo in tutta New York, tutta Manhattan, il transgender, conosciutissimo in tutta Manhattan, altro che. E poi questi che chiamano sono anche degli invidiosi, sono degli invidiosi, vorrebbero essere, dici? Questi che chiamano qui alla Radio 24, cioè vorrebbero essere la poeca. Quelli che chiamano da Milan sono dei fini intellettuali. Quelli che chiamano qui sono gli scarti di magazzino che chiaramente. Comunque è vero, perché lui, perché lui è uno di quelli che genera dei sogni. Esatto. Siamo generatori di sogni. Sì. Creatori di sogni. È vero. Aspetta. La gente lo invidia. Aspetta. Lavoriamo sia sul B2B che sul B2C, generando sogni, creando sogni e costruendo sogni. Noi siamo generatori di sogni, creatori di sogni. Vabbè, non ho capito il B2B e B2C. Tu hai capito sta cosa, il B2C? Ma sì, certo, quella è una teoria economica, il B2B, il B2C, ma questo non mi interessa niente. Ma non è un professore di economia. Aspetta, della Bocconi. Tu la sai che c'è anche la Ferrari con la carrozzeria in velluto, sì. Bellissimo, geniale. Ho lavorato su quello che sono i pattern, come c'è il gessato, sì. C'è il principe di Galles, c'è il tartan. Sì, però di solito sugli abiti, no? Sugli abiti, sì. Ma certe automobili l'hanno fatto sui loro interni. Delle vecchie Ferrari avevano il velluto, piuttosto che... Però dentro. Dentro, io lo voglio fare sull'esterno. Allora, ragazzi. No, però scusami, se c'è qualcuno in Russia o nei paesi arabi che compra le Ferrari con il velluto sul tetto, il coglione non è l'apo, ma il coglione è chi lo compra. Sì, ho capito, però. L'apo diventa un genio. No, però ti voglio dire che siccome lui si è proposto come uno. Dico, la gente aspetta, è come. Invidiosa. Sì, ma quello sicuramente. Come la uno. La gente è invidiosa di un ragazzo che sicuramente è stato fortunato, ma anche per altri versi sfortunato. Allora, perché... uno dei simboli del Made in Italy che si presenta come tale. Finge un rapimento per prendere $10,000 alla famiglia, che forse lo inchiappetta la famiglia, avvertendo la polizia per dargli una punizione in America. Questo è quello che viene fuori anche dalle indiscrezioni. Comunque, ragazzi, parliamo per qualche minuto di un'altra cosa. È ritornato all'attacco, aveva detto che sarebbe stato zitto fino a 4 dicembre, il mitologico governatore del mondo. Il governatore del mondo, caro Parenzo, inattaccabile. Inaffondabile, se ne fotte delle critiche, delle denunce, il clientelismo, il latrocinio, i soldi dati in cambio del sì al referendum, tutte le cose che abbiamo sentito che ha detto ai sindaci, vi hanno riempito di soldi, che cazzo volete di più? Cioè proprio la politica ridotta allo stato di cercare i voti a tutti i costi. Se ne sbatte i coglioni, sentila l'attacco. Così ci piace, così De Luca, vai! Ma chi veramente è un mito e noi veramente gli dobbiamo sempre dedicare un pensiero è Luigino Di Maio, perché è un nostro concittadino. Merita, io gli devo questa attenzione, anche perché me la dedica lui a me, ogni tanto dice una palla, io rispondo, se no figuriamo se perdo tempo con Luigino Di Maio. Luigino Di Maio, noto sfaccendato. Noto sfaccendato Luigino Di Maio, mi fa impazzire. Mi fa impazzire come tratta Luigi Di Maio. È una cosa che vado ai matti, cioè è una tale genialità teatrale che è oltre qualsiasi cosa, cioè è forse la cosa politicamente più bella degli ultimi 10 anni, credo. Cioè dal punto di vista scenografico, teatrale, drammaturgico, di comunicazione, è una delle cose più belle. Sarò un malato io, che ti devo dire? La penso così. Questo si candida a fare il presidente del consiglio, ha 29 anni, 28 anni. Non ha mai lavorato in vita sua, non ha mai fatto niente. Cioè fino a 3 anni fa stava a Pomigliano d'Arco e faceva il figlio di famiglia, come diciamo noi. cioè andava dal padre, si faceva dare i soldi per la birra, la pizza e la paghetta, insomma. Poi è andato a fare lo steward allo stadio San Paolo, lo hanno cacciato perché portava seccia. Noi il Napoli perdeva quando c'era questo qua con la seccia, babbia. Poi a un certo punto ha detto che fa il webmaster, io non sapevo il web, ho una certa età, non ho finito. Web che cazzo fai, questo è il webmaster. No, mentre lui chiama le Nazioni Unite il voto di scambio, l'unico elemento di illegalità è quello che c'è stato a Palermo, dove i grigini hanno fatto le timbe pa, e non dicono niente. È arrivata la lettera a Palermo e neanche è riuscita a leggere, cioè un analfabeta digitale. Il webmaster ti possa, no, non volevo dire ti possano benedire, possano benedire. Beh, un genio, dai, un genio, genio assoluto. Contro Grillo pure, sentite, numero uno. Perché se tu ti presenti come un monaco francescano, trappista, benedettino, vi ricordate? Fratello, ricordati che devi morire, che tutte ste... Poi vengo a sapere che sei un miliardario, che hai la villa a Genova, poi la seconda villa sulla costa toscana a Marina di Bibbono, poi quando ti vai a fare le ferie a agosto io devo vedere dove diavolo devo andare, perché mi devo fare i conti, perché oltre i 5.000 euro cominci ad andare in difficoltà, e vedo che tu te ne vai sulla costa Smeralda, e poi dopo te ne vai dalla costa Smeralda e vai a Malindi in Africa con la panza al sole. Io poi mi incazzo quando torno in Italia e dice dobbiamo fare i monaci trappisti, perché vuol dire ci stai prendendo per i fondelli, o oh no, o oh no, oh. Allora mi scrivono, mi scrive l'avvocato Cicconi, mitologico avvocato Cicconi, che non c'è, in Italia non era punibile questa cosa, non c'è nessun reato, quella di Lapo naturalmente, non doveva essere arrestato, addirittura cita articoli, però caro avvocato, tu sei un genio, lo so, però il problema è, non è la tua genialità che non è in discussione, il fatto che stiamo in America, però quello è il punto. Non è che stiamo in Italia. Non doveva essere arrestato perché, sempre secondo l'avvocato Cicconi, non vi è simulazione di reato, non vi è stato da parte di Lapo alcuna denuncia all'autorità, fatta invece dai familiari, al massimo vi è tentata estorsione. Vedi che genio che ribalta tutto, no? Va là in tribunale e ribalta tutto, ma non c'è stata nessuna estorsione nei confronti, no? Non c'è stata nessuna denuncia, al massimo vi è una tentata estorsione contro i familiari. Non punibile, ex articolo 649 codice penale. Beh, è un genio quest'uomo, eh. Quest'uomo è un genio. L'avvocato Cicconi è un genio. Allora, altre persone che non posso nominare, dicono il nonno gli dava giù di brutto, e dico solo questo, altrimenti poi no, non si possono toccare alcune cose, e però non si faceva scoprire, no? Non ha mai sputtanato la sua immagine, pure questo è vero, il nonno, giusto David? Giusto David? Ma io non lo so che giusto cosa David? Giusto nonno, David? Giusto David? Mi interessa poco quello che faceva, vabbè, il grande avvocato, ti interessa poco. Berlusconi, allora, Berlusconi con la Berlinguer. Voglio fare una pubblica. Ma cosa c'è pubblicamente? Berlusconi? Un'altra cosa, voglio cambiare. Ma Berlusconi è stato presidente del Consiglio. Voglio cambiare. Fatto da presidente. No, ma non c'entra Consiglio. Niente. Berlusconi e la Berlinguer. Allora, ti dico solo una cosa. La Berlinguer numero uno, non deve permettere a Berlusconi di fare il comizio. L'ha interrotta e quello ha detto, beh, mi alzo e me ne vado. Ma giustamente lo ha interrotto, non è che qui stiamo in trasmissione dove uno può fare il comizio come vuole. Stai nella mia trasmissione, io ti interrompo quando voglio. Non ti sta bene, ti alzi e te ne vai. Numero uno, Berlinguer. Dentro il Senato, a priori, il Partito Democratico avrà 60 su 100. Benissimo. Mi deve lasciar finire, lo signora. So, però. Non sono ragionamenti da sì o no. Sì, certo, però noi non siamo Vespa, abbiamo 20 minuti, devo farle vedere anche dei servizi. So. Allora, però mi deve lasciar finire. Allora, rapidamente ci dica allora, questa cosa. Numero uno, dai, numero uno, non è che stiamo a porta, uno fa ragionamento da 20 minuti, amica mia, amico mio, anzi. Renzi, che è padrone già del partito, si troverebbe ad essere benissimo. Il leader del partito, il leader padrone del governo, il padrone del Senato, il padrone della Camera dei Va deputati, bene. Il padrone della scelta. No, non può andare legge. Così, non può andare avanti così questa intervista. O lei minuti. Mi lascia il tempo di rispondere su cose serie, oppure è inutile che facciamo questa intervista. Mi alzo e me ne vado. Mancano 14 minuti. Allora, devo io me ne vado, no, signora. Ma non se ne vada, ma le devo ma fare. Non è possibile anche che lei non mi lasci rispondere su cose serie. A Berlusco, hai detto le stesse cose, è due mesi che dici le stesse cose, la dittatura di Renzi e qui e l'altro, stai in una trasmissione, uno deve stare pure alle regole di una trasmissione, la signora Berlinguer non è che te può far fare il comizio per 20 minuti, o no, Parenzo, numero... No, ma non c'è dubbio, ha fatto benissimo. Lo interrompe, stai ai miei comodi, stai alle mie regole. Ha fatto benissimo Bianca, quello è il suo pro carta, anche perché... carta bianca, fa quello che gli pare. Esatto, fa anche, che perché, pare. Anche perché, poco dopo, il signor Berlusconi va a Canossa, resta, naturalmente non se ne va, e dà un annuncio: dopo il 4 dicembre potrei lasciare la politica, deciderò se lasciare la politica o no. Vedi che non è che essere remissivi paga sempre, non è che tu sei remissivo, perché spesso quando sei remissivo stai lì a fare tic toc a guardare in faccia una persona e non dire un cazzo, alla fine quello non ti sgancia niente, invece qui in questo caso ha sganciato. Che lei può tornare, no, a fare non l'ho leader. Detto, non l'ho detto in questi termini, io ho detto che dopo il 4 di dicembre prenderò con calma una decisione se continuare o meno in questa attività politica o tirarmi fuori addirittura della politica. Il mio senso di responsabilità mi fanno sentire ancora necessaria una mia presenza. Benissimo. Vabbè ragazzi, andiamo con Marco, provincia di Lucca. Vai Marco. Marco. Ci sono? Sì, vai, dimmi. Sono io. Parenzo. Poi c'è Luca da Riga, Riga, Lettonia, che è Lettonia, Riga, sì. Lettonia, Riga, che è Lituania, Lettonia, non mi ricordo più un cazzo. Luca, aspetta, Luca, voglio sapere se è Lettonia o Lituania, scusami, c'è un attimo di buco. Luca. Lettonia, Lettonia. Lettonia, ottimo, ottimo. Marco, allora? Ma sono io o okay. Che? Marco, amico mio, sei tu, sì, sì, non c'è okay, uno scambio. Oh, Parenzo, no? Sai chi sono io? Lei ha messo peggio di Lapo, glielo dico io, perché se no, non sa neanche sono, chi è lei. Ti ricordi Marco di Pisa? Ma che ne sa Marco di Pisa questo qua? Ma è il barbone! Ah, il, il cane. Il barbone, ti sei fatto pure te stasera, che c'hai? No, quello che ti ho chiamato l'estate scorsa, Marco, da Pisa, con Show il cane. Ah, con Show il cane, mi sembra che sei un po' fattone pure tu, no? Stasera ti sei fatto qualcosa? No, io mi sono sempre fatto, infatti ti volevo no, dire... No, ma anche oggi, questo. Anche adesso ti sei fatto qualcosa? Sempre, sicuramente, ma cazzo oggi, me ne frega, oggi. Io oggi ho fatto 56 anni, cazzo me ne frega, io mi faccio tutti i giorni. Ma di la che? Mamma non la tocco perché non eroina, mi piace, mi eroina. Faccio di roba. Eroina. Sono da esattamente dal 77 che mi faccio le pere, dalla mattina alla sera, e voglio capire semplicemente una cosa. No, ma dico, quanta allora, te ne fai, amico mio, quanta te ne fai? È che... Di roba? Adesso la roba non costa un cazzo perché è merda. Ma è roba, capito, ma stai, stai attento, amico mio, che chi c'è, ti piglia una schioppettata, no, di overdose. No, ma io la conosco, non ti preoccupare, la conosco la roba, non ti preoccupare. È 40 anni che la uso, non è mica un giorno, vai tranquillo, 40 anni. Ma non capito, anni. Amica mia, 56 anni, e come fai con i soldi a procurarti la steroina? Io faccio la colletta, fratello mio, perché ci vuole tanto a fare 20 euro di colletta. E che fratello 20, mio. Fratello, 20 euro di 20 euro, ma tu non sei mai andato in una comunità a cercare di uscire, non vuoi uscire? Io in comunità, no, la comunità deve venire da me, gliela do io una lezione di vita a quelli che vanno in comunità. Perché posso non capito chiedere che cosa voterà il referendum, professore? A prescindere da tutto il resto, che comunque chi va in comunità, il 99%, quando esce fuori si fa di nuovo. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Per roba e per mano. Primo. Che non è comunque un percorso che comunque dimmi. Professore, volevo semplicemente chiederle lei che cosa ha intenzione di votare. Diamo una botta finale al referendum. Che cosa ha intenzione di votare al referendum lei? Io? Io voto Forza Cagliari, un po' di roba, se ci dà come Marco la buona anima di pannella anziché il fumo. Ci dà un, ma non c'è Cagliari, il referendum roba, costituzionale non devo votare, a me mi portano a sé che sia del no, mi da mangiare, ma che gli no, frega no. Quello vuole la roba dalla mattina alla sera, sai che cazzo gli ma allora qual è il problema? No, io vedo perché con il mio cane nella strada, ho messo, aspetta Marco, cartone, cosa cazzo me ne frega a me? No, ma Marco, ti conosciamo, hai già chiamato 2-3 volte l'ultima volta. Perché qui chiamano questi no, tossici? No, non mi avevano più permesso di chiamare. Mi avevo chiamato solo una volta, poi mi hanno dovuto cambiare il numero per chiamarmi. Ma quello che volevo no, dire. No, ma fratello, scusa, ma tu devi. Scusa, noi siamo pronti ad accogliere tutte le tue chiamate. Perché ti impediscono? Sempre, tu puoi chiamare sempre quando vuoi. Che stai scherzando? Uno che no, vive. Uno che vive. Ci sono state delle storie, non lo so, quando c'erano delle trasmissioni che io ce l'ho col mondo intero ogni tanto, perché comunque. Questo io ho visto situazioni quando si parla di giustizia, ok, io ne ho visto di tutto. Quando si di parla più. Di giustizia, immagino che sei stato in galera diverse volte, sei stato arrestato in galera diverse volte, immagino, o no? Certo, Certo, vabbè, certo, non è certo, cioè non è certo, lo diamo per scontato. Quelli tutto. Che hanno visto la strada, penso che bene o male qualcosina l'hanno fatta dentro le sbarre. Vabbè, che ci vuoi dire? Stasera, paga, quando ti sei fatto? Paghi. Stamattina, adesso, quando ti sei fatto? Io adesso, un po' 10 minuti fa, appena vi ho chiamato, sono fatto dal telefono, mi sto facendo giusto giusto uno schizzetto. No, vabbè, Marco, adesso... Ma che cos'è, scusi? No, però, ho capito, però non è che possiamo fare... un altro schizzetto. No, però, Marco, scusa, adesso, dobbiamo essere chiari qua. Noi possiamo anche farci raccontare da te, però non è una bella cosa. No, cioè... io la cosa non la faccio, non mi piace. Non? Non mi piace la bamba. No, ma ho capito che ti fai di eroina, però il problema qui è uno solo, cioè non è che possiamo dire va tutto bene, uno dice ecco beh, faccio uno schizzo di eroina. Vabbè, non va... Per me va bene, qual è il problema? No, io mica metto il piede tra le gambe di un altro, io faccio la mia vita, scusa. No, per carità, però... No, ma è il fatto di dirlo così alla radio tranquillamente, capisci? Ma non mi interessa, sono aperto, guarda, tu pensa che ho due figli e sono dal 99 che non li vedo, sono anche nonno. Qual è il problema? Magari mi stanno anche ascoltando. Dov'è il problema? Lo dico apertamente. Ma infatti il problema... Quando c'è un fermo di polizia e mi dicono ti fai, sì, qual è il problema? Ma mi trovano la roba, sì, è la mia. Qual è il problema? No, ma perché Marco, non sto, nascondere? Non sto dicendo che tu ti devi nascondere. Ma sto dicendo, chi chiama qui? Sto dicendo, no, ma lascia perdere. Sto dicendo, vuole dire la sua, credo su una questione di Lapo Elkan. Però io ho semplicemente detto, quando tu mi hai accennato, adesso mi sto facendo uno schizzo, o mi sono fatto uno schizzo 10 minuti fa, che non è che possiamo comunicare all'esterno che è normale che uno si faccia di eroina. No, sono io mi sono fatto, qual è il problema? No, per te è normale, però sto dicendo, chi ci ascolta non è che può dire, beh, adesso viva l'eroina, non è per te viva l'eroina, per altre persone... Assolutamente, non voglio che uno dica, anzi, io quando vedo gente che ci va di mezzo gli dico, levati dai maroni, non la fare, perché non esiste, perché va mezzo mare di melma, ma io ho una vita che la faccio, ma non è questo, non è che sono un uomo vissuto, un uomo grande. Marco, aspetta che c'ho la pubblicità, eccetera, poi torno da te. Marco dalla provincia di Lucca, credo invece che sia da Pisa, ha detto quello che ha detto, vuole parlare da quello che vedo qui, io vedo solo una scritta, trans, perché vuoi parlare di trans adesso? Marco? Marco? Perché vuoi parlare di trans? Che è successo? Io di trans? Perché comunque ne frequento un casino, sono delle persone tranquille, qual è il problema? Aspetta, non c'è mai problema, Parenzo, non c'è mai problema, aspetta. Dove c'è zanzara, c'è cacciara. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracomitalia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. La zanzara è un mondo nel quale è facilissimo entrare, ma uscirne è praticamente impossibile. Ragazzi, è semplice. Se volete dire quanto sono sporchi neri, o quanto rubano i rom, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-717-1701. Siamo al top. Il numero va detto meglio, quello per i vostri messaggi WhatsApp, 393-71-71-701. Ciò nulla toglie alla genialità di quest'uomo. Allora, c'è una notizia di cui non abbiamo parlato, travolti dalla vicenda Lapo Elkan, di cui parla tutta l'Italia, Parenzo, che tu lo voglia o no. Ma dico che una vicenda del chiacchiericcio, è un'Italia. Una vicenda gravissima, di cui ci occuperemo sicuramente nei prossimi giorni, caro Parenzo. Succede a Torino, un anno di carcere al poliziotto per avere sparato a un nomade in fuga. 16 mesi per il giovane rimasto ferito, accusato, il giovane nomade, di resistenza a pubblico ufficiale e furto. Sono le richieste del PM, PM durante il processo, il processo a questo assistente capo di polizia che si chiama Andrea C. Perché Andrea tu C. vorresti che il delinquente, perché il rom chiaramente in questo caso era un delinquente, sì, sì. al delinquente venisse non soltanto comminata la pena massima, sì, ma reputi legittimo che gli si spari, che lo si renda in barico. No, fermo, no, no, no, no. Allora, questo attiene agli stati teocratici. Questo signore che si chiama Megaiver Suleimanovic, questo nomade. Questo nomade è un criminale. Fu no? ferito alla ma non schiena. Il criminale merita di essere maltrattato. Fu ferito parato. Alla schiena la sera del 15 dicembre 2013 all'uscita del distributore di benzina a Tamo Hill in corso Unione Sovietica. Aspetta, poco distante dalla tangenziale. Il giudice ha rinviato l'udienza per la sentenza al 14 di dicembre. La cosa incredibile è che viene chiesto un anno e un milione di danni a un signore delle forze dell'ordine che è lì sul posto per difendere voi che ci state ascoltando e spara a un nomade rapinatore eccetera. Questo è il punto fondamentale. Spara un poliziotto, non un cittadino armato che esce da casa e vuole fare il Charles Bronson dei no altri. Un poliziotto. Dicono come al solito che i colpi sono stati eccessivi, che non doveva farlo, che i proiettili potevano colpire un passante, eccetera, eccetera. Tutte puttanate. Quel signore lì, poliziotto, stava colpendo un signore che si era macchiato di delitti. Chiaro? Difendeva voi che ci state ascoltando. Difendeva voi, la vostra sicurezza. Ma cosa c'entra? Chiedono un anno di galera e un milione di... Sì, chiedono, il PM chiede un anno di galera e un milione di danni a uno che difende la vostra sicurezza. Ditemi voi se è normale un paese così, se è normale. Te ne dico un'altra. C'è un signore che ha aggredito in casa Hermes Mattielli, te lo ricordi, poveraccio? Come? Che poi è morto, certo, di crepacuore poco tempo fa, che tu hai attaccato in tutti i modi, eccetera. E furono feriti due nomadi, anch'essi romeni o nomadi, non mi ricordo. Furono feriti da Hermes Mattielli, che reagì a quell'assalto, a quel tentativo, certo, di rapina. Hanno avuto dei danni, alcuni permanenti. Uno dei due è in galera di questi nomadi. Un altro, sai cosa ha fatto? Vive in una roulotte, sempre dalle parti di Treviso e dintorni, credo, comunque in Veneto, provincia di Belluno, Treviso, non mi ricordo. Cosa è successo? Vive in una roulotte. Questa roulotte va a fuoco e lui chiede un alloggio pubblico, cioè chiede una casa popolare, come dici tu, perché sì, la roulotte è andata a fuoco e sembra che sia andata a fuoco in maniera accidentale. Ha fatto malissimo a chiedere, innanzitutto. Ha fatto bene a chiedere la casa popolare, perché vuol dire che si vuole integrare anche. Sì, certo. Cosa succede? Sì, sicuro si vuole integrare. Certo, si vuole integrare. Infatti, tanto si vuole integrare. Sì, cosa che fatto, le poi? Telecamere, sì, le telecamere hanno ripreso lui che bruciava la roulotte. Cioè, lui si è autobruciato la roulotte per poi chiedere l'alloggio popolare. Perché non vuole più essere nomade. Tu vuole dimmi, sì, ma ragazzi, io non ne posso e più. E si è bruciato la roulotte, un furbetto. Ma ho capito, ma dai. Un criminale furbetto. Tu ridi, furbetto. Dai. Marco! No, rido Marco! Dimmi. Che nel frattempo ti sei fatto ancora, no? No, assolutamente. Aspetta, ma sono la radio che ho alzato. No, la questo radio, però, adesso, al di là di quello che fai tu, l'eroina, queste cose qua, la tua situazione. Ma perché questo signore non chiama mai Lina la mattina? Ma qual è il problema? Scusami. No, ma assolutamente non. Ma per... no, qual è il problema? Marco, adesso non è che uno può dire qual è il problema. Per te non c'è nessun problema, figuriamoci, uno può fare. Per me, uno nella vita può fare quello che vuole. Io sono d'accordo, certo, pure per la distribuzione, come dire, controllata, come facevano in Svizzera una volta. Ma perché, certo, io sono a favore di queste cose qua, sono a favore di tutto quello che può limitare i danni di queste robe qui. Il punto è un altro. Non si può dire qual è il problema se uno si fa di eroina. È un grosso problema. Con un aglio, così almeno sfatiamo un mito. Posso dire la mia? Dimmi la tua. Mi è concesso? Ma come no? Certo, siamo qui per questo. Dimmi. Allora, io vivo nella strada un sacco di anni. Sì. E ne vedo di tutte e di più. Ascolta queste parole. Dimmi, le ascoltiamo. Tanti con grande interesse. Politici, sì, quello che vuole, forza dell'ordine, che magari lo sanno più o meno di me, forse meno di me, perché ne vedo di tutto e di più, no? Le belle signorine con i tacchi a spillo che pensano i loro figli sono i migliori. Io vedo tante di quelle storie. Oggi come oggi, dei 13, 14 anni, già sono in mezzo alla roba, amico mio. Vabbè, non è detto, mio, non è che tutti. Ma non è uno. Ha capito, sì. Io ne conosco centinaia. Ma sì, Marco, che ci sia un figlio di personaggi che contano. Ascoltami, Marco, me. Ma che ci sia la diffusione di droga, di eroina tra i ragazzi di 13-14 anni, non ce lo viene, cioè, lo sappiamo che è così purtroppo, ma non è normale, non è normale. Allora, io voglio semplicemente dire una cosa, perché uno se si fa di bamba. Allora, dato che lo quanto Stato costa l'eroina oggi? Quanto costa l'eroina? Illegale. Quanto costa l'eroina? Quanto costa l'eroina? Ma non è più roba quella che c'è oggi. La roba che c'è oggi non è più roba. La roba è la roba negli anni 80, fino agli anni 90. Ho capito, ma tu quanto la paghi? La cubrette, roba che devi fumare. Io purtroppo sono agofilitico, agomania, a me piace l'ago. Però è cubretti, non è più la roba che si faceva negli anni 80-90. Adesso è merda, scusando la E quanto frase, la paghi, scusa? Quanto la paghi sta merda? Tu pensa un po', negli anni 80 io pagavo un grammo di roba a Cagliari, pagavo 80-90 lire, c'era la lira. Ah. Adesso un grammo di roba presa a Pisa costa 5 euro. 5 Guarda euro? Che roba? 5 euro. Vabbè, là perché la marijuana che viene dall'Albania, che ce n'è a tonnellate... Ma è questo, è per questo che poi c'è tutta questa diffusione, purtroppo. È per questo che c'è questa diffusione, purtroppo. Che volevi dire sui trans? Non ho capito. I trans sono come noi. Scusami, Peppe, se uno si vuole fare quello che vuole fare il suo corpo, non è. Perché è proibito? Cioè, ma no, assolutamente. Una... Marco, però ti devo lasciare. Se una persona vuole fare quello che vuole il suo corpo, qual è il problema? Ma no, ma almeno. No, adesso non possiamo dire se. Sono andato a trans, poi qual è il problema? Ma cos'è che. Mi diverto pure. Cos'è che non hai fatto, diciamo, Marco? Diciamola tutta. Cos'è che non hai fatto? Poche cose non hai fatto. Diciamola, Diciamola, fino in fondo. Io ho viaggiato una vita, mi sono fatto. Negli anni 80 tutte le robe non so. Adesso, vabbè, Marco, ciao, ti saluto, ti abbraccio. Chiamami più spesso. Spagnolo, chiamami. La terza elementare, cosa devo fare? Chiamami più spesso. Ciao. Ciao ragazzi, io sono etero, ma sono frocio della zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle, spettacolo e avventura tra le Dolomiti. La Zanzara. Caro Parenzo, sei proprio il prototipo del miserabile. Tu che definisci miserabile chi ti ascolta, ma sei proprio un miserabile proprio totale. Sei sempre con la lingua appiccicata al buco del culo dei potenti, stai difendendo l'indifendibile, vero? Sei da vomito. La parola giusta è qui, sei da vomito. Vomito. Parenzo, sei un pezzo di merda. Se uno va a puttane è un miserabile e se l'apo va a trans invece è l'ottimo lapo, ma vaffanculo. Oh Parenzo, non ti è venuto il dubbio che quel povero trans magari è sfruttato, magari c'ha il magnaccia, è super sfruttato, non ti è passato per la testa? Come mai non ti è passato per la testa questa tua idea del cazzo? Parenzo, quindi per chi va a prostitute, foto, gigantografie, multe, polizia a casa, per l'apo... E la privacy. Buah. Allora, caro David, per cercare di capire qual è la... No, vorrei spiegare a questi qui che chiamano soltanto una cosa, poi sì. Chi se ne frega, anche perché sì. non me ne frega assolutamente nulla. Non mi pare che l'apo sia un potente, cioè io non sto difendendo un come potente. No, potentissimo. Non mi pare che sia un potente. Ma sì, come no. Ma certo l'apo è un imprenditore di una famiglia molto ricca. No, non scherziamo, è potente. Non dai. Mi pare una persona potente. Ma come no, questa ma certo che sì, certo che sì. Io ho detto, il mio parere personale su chi va con i trans, non gliene frega niente a nessuno. Io ti ho detto, io ne vado con i trans, ovviamente, né faccio uso di cocaina come ben sai. Vabbè. Mi faccio le carni ogni tanto e purtroppo non così. Allora? non ho difeso il potente lapo, ho difeso il principio di un ragazzo, di un signore, di un imprenditore che a casa sua fa quello che gli pare. Ma non è a casa sua, là. In America, primo, secondo, ha reso pubblica la cosa con un finto, con un finto sequestro. Con la quale la gente si scaglia contro lapo, che fa ridere, che è un ragazzo che nessuno si scaglia, rotte, che dice delle cose improponibili, che vuol mettere sul tetto di una macchina della moquette, ma cose anche diverse. Ma la volgarità con la quale la gente si scaglia, ma nessuno si scaglia, perché è ricco e soprattutto c'ha mille possibilità in più di tutti noi miserabili. Vabbè, che vuol dire? Compreso il sottoscritto, ovviamente. Vabbè, ti presento una persona. Una persona, un transessuale, ecco, un transessuale. Ma immaginavo, mancava, vedi? Ma che c'entra? Con l'apo. E ogni giorno ce n'è uno, ma va benissimo. Ma non è vero, non è vero, è un transessuale diverso dagli altri, perché è una persona che, per carità, non è che i transessuali non studiano, però non fa la prostituta, già è una cosa che ti soddisfa magari, Parenzo. È una persona che vuole fare lo spettacolo, è una persona giovane, antileghista, non come Efeball. Fiorentina, come Renzi. Mi sa che vota pure sì al referendum. Si chiama Sherry De Rossi. Buonasera. Ciao Giuseppe. Come ciao, andiamo? Parenzo. Ma senti, buonasera, che, signora. Senti che voce. Cioè, è tutto tranne la voce di un transessuale. Buonasera, signora. Allora, benvenuta. Giuseppe, scusami, ti correggo immediatamente. Si dice una transessuale. Vabbè, adesso non fare la Boldrini adesso. No, è importante invece. Perché è importante? Dimmi. È importante perché connota quello che una persona è. Dunque, quindi uno deve dire una transessuale. È un'offesa dire un transessuale. Vabbè, perché è come se una donna parlasse al maschile. Ho capito, amica mia, però tu sempre pisello c'hai, scusami. Non c'entra niente, è una questione di anima. Scusa, non tu è la carta che fa una persona. No, la carta d'identità, certo, ma su questo sono anche d'accordo. Nella carta d'identità, cosa c'è scritto nella tua carta d'identità? Nella carta d'identità devi sapere che per fortuna negli ultimi anni, grazie anche soprattutto negli ultimi tempi, adesso amato Renzi. Senti che voce morbida, Parenzo. Che voce pacata, direi. La pacatezza dei transessuali interpretata risiede nella testa di Sherry De Rossi. Allora, Sherry, nella tua carta d'identità, lasciamo perdere Renzi, eccetera. Nella tua carta d'identità. Carta d'identità, io posso fare ad oggi il passaggio da da uomo a donna anche senza l'operazione. Ottimo. E tu l'hai fatto questo mi pare molto civile. Tu l'operazione non l'hai fatta, naturalmente. Io l'operazione non l'ho fatta. E non la farai probabilmente. E non la farò. Al momento non la farò. Perché in realtà agli uomini, a te piacciono gli uomini, gli uomini gradiscono l'uccello, diciamo la verità, quelli che frequenti. È così, diciamo. Sei più attraente così, questo si può dire, sì o no? Certo, ma è un valore aggiunto, io credo. Anzi, scusami se mi permetto, vorrei salutare Vittorio innanzitutto. Ah, che hai sentito prima Vittorio Sgarbi, sì. Esatto. E perché vuoi salutare Vittorio? Pormi come sua iniziatrice, perché secondo me l'unico motivo per cui ancora non ha provato è il fatto che sa di poter diventare dipendente come tutti gli uomini che provano. Questo è interessante come cosa, vedi, con questa voce, con questa voce pacata, Parenzo, Sherry ci ha comunicato una cosa fondamentale. Io vi chiedo scusa se non dichiaro pubblicamente che non proverò, ma non perché abbia, perché Parenzo, sono attratto dall'altra azienda, un'azienda no, a lei concorrente. No, dicono tutti così. Io sono attratto da un'altra azienda, capito? Sherry, insisti perché è giusto quello che stai dicendo. No, ma è giusto, io che vi chiedo scusa, è come quelli a cui piace il cioccolato alla vaniglia e con magari il gelato, sono quelli a cui piace la però crema. Però se non hai mai provato il gelato, se non hai mai provato non puoi saperlo, però. Beh, io però ho una respingenza rispetto a questa però cosa. Però Sherry ci sta raccontando una cosa, che probabilmente le persone che lei ha frequentato, non essendo prostitute, le ha frequentate per puro, come dire, per puro piacimento, per puro divertimento, giusto Sherry? Certo. Non ti sei mai prostituita in vita tua, giusto? Mai. Né credo che colpevolizzi chi lo fa, però, o no? Assolutamente, ognuno è libero di poter scegliere. Esatto, però c'è un prototipo che è quello della trans prostituta. Tu non appartieni a quel mondo lì, la trans prostituta. Mi dispiace che, come il caso di Lapo, venga sempre fuori il personaggio della trans prostituta che comunque partecipa ai festini. Vabbè, però, amica drogata, cocainomani, eccetera. Tu non ti droghi, mi sembra. Non mi drogo, sono anche astemia, mai fumata una sigaretta in vita mia. per cui... Però ti piace, ti piace il pisello, diciamo la verità, ti piace l'uomo. Quello molto, ti ovviamente. Piace molto il maschio e il pisello e ti piace fare sesso in tutti i modi. Ora, io voglio dire una cosa molto chiara. Sherry ha detto, mi sembra un principio basilare, cioè gli uomini, anche se non lo sanno, secondo la sua esperienza, che è un'esperienza, quanti anni hai Sherry, scusami? 25. Ecco, 25 anni, molto giovane, nonostante la sua giovane età, è una persona colta, è una persona preparata, è una persona che no, non è... soprattutto è straordinaria perché è antileghista, quindi già questo la rende... A me dice delle cose contro Salvini, terribili, che magari adesso gliele farò dire, però, ma che le dice anche con una con un candore, dice, ma Salvini è un razzista. Ma questo non c'è dubbio. Giusto, Sherry, che cos'è Salvini? Dimmi, non è che ci vorrebbe la nostra amica trans per dirlo. Il male d'Italia, il male d'Italia addirittura. Il successo che sta avendo negli ultimi tempi è dovuto al fatto che, come tutte le dittature, sta sfruttando l'odio, il malcontento della gente con argomenti populisti, con il razzismo, cercando di trovare un capro espiatorio che non ha nulla a che vedere con la crisi. Cioè tu dici negli immigrati, nelle cose, capro espiatorio. Esattamente. È una perfetta, vedi, Sherry, una perfetta deputata del Partito Democratico, caro Paolo. Dopo, beh, assolutissimamente, come mi stai dicendo che se potresti essere in Parlamento per il PD molto meglio di tante persone che magari hanno, no, che non hanno, no, che si presentano, diciamo, molto in maniera magari più borghese. Allora voglio dire una cosa, però Sherry, data la sua esperienza che ha nel campo, ti dice che un uomo, anche se non ha provato, poi quando prova non torna indietro, giusto? Non torna indietro. Io ho tantissimi esempi, quasi tutti i miei uomini, certo, sì, fidanzati, sì, mi hanno ricontattata dopo la fine della storia perché mi dicono sempre che, tornando al classico, manca sempre qualcosa. Parenzo, capito? Sia da un punto di vista intellettivo, sì, vabbè, umano, quello è un altro... sia soprattutto da un punto di vista sessuale. No, ma ragazzi, non mi... No, però voglio capire, cioè, secondo te... Tra... Io di classico parlo del liceo classico. E Sgarbi, cioè, entrambi. E Lapo, e Lapo hai frequentato Lapo anche, no? No, Lapo lo vorrei frequentare, anzi mi propongo come First Lady Elkan, perché credo che sarei la sua donna perfetta. Riuscirei anche a portarlo sulla retta via. Cioè, secondo te lui alla fine dovrebbe stare senza tutte quelle donne che lo circondano, che sono esatto, tutte finte, dovrebbe eccetera? Dovrebbe smettere di cercare transessuali di quello stampo, cioè che a non pagamento, gli possono dare niente, sì, sia da un punto di vista culturale, umano, non c'è dubbio, eccetera, eccetera. E trovare una persona nella quale, come me, possa trovare non solo appagamento da un punto di vista sessuale, ma anche umano e sentimentale. Cioè, capito, Davide? Cioè, la questione è molto semplice. Lei dice, io sono, dal punto di vista sessuale, per quelli cui piace questa, diciamo, questo genere, come Lapo, sono di alto livello. E in più... non sono a pagamento, metto anche il cervello, cioè si dovrebbe fidanzare con me. Però guarda che lui un fidanzato trans non lo vuole, cioè lui vuole una fidanzata ufficiale, così, e poi farsi trans una botte via. Ma non lo so, lui è una persona in realtà molto intelligente. Ma tu conosci altri trans che lo frequentano? No, abbiamo degli amici in comune che mi hanno raccontato, ma non voglio parlare della vita privata perché quello di questo stiamo parlando. Lo so, ma non mi sembra il caso di infierire dopo tutto quello che ha già fatto da sé, perché credo sia una vittima di se stesso in realtà. Questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Senti Sherry, ma quante proposte ricevi tu? Tu frequenti un sacco di locali di Milano per lavorare? Io lavoro nei locali di Milano e ne ricevo il triplo delle mie amiche donne biologiche. Quindi calciatori, eccetera, eccetera. Ho provato tutto, calciatori politici, VIP dello spettacolo. Ma ti sei anche fidanzata? Sì, diciamo che ho avuto una storia un po' più importante con uno di questi, senza entrare nel dettaglio. No, per carità, ma voglio dire, calciatori questi qua, eccetera... Calciatori sono i primi, gli sportivi vanno pazzi per le trans. Gli sportivi vanno pazzi per le anche trans. Anche perché sicuramente si avvicinano al genere, dato che di donne ne hanno avute a bizzeffe da sempre. Per cui dunque vogliono cambiare, dici, vogliono un po'... Ma il problema è che poi una volta sperimentato non riescono più a tornare indietro, e quindi c'è sempre il binomio fidanzata velina e amante trans, capisci? Vabbè Davide, ma questa è la realtà. Cioè Sherry ha 25 anni, è di Firenze, è venuta a Milano da pochi anni, conosce il mondo, quello quello della vita. No, no, ho capito. Volevo chiedere una cosa a Sherry, però particolare. Sì. Cioè, certo. In questo momento io mi trovo a Siena. Allora, siccome so, volevo chiedere. Il cavolo verde. Il cavolo? Il cavolo verde, quanto deve bollire? Che lo sto facendo per mia figlia. Non lo so e non l'ho mai mangiato in vita mia. No, chiedo scusa se magari uso pelle. Questa trasmissione come con scopi meramente privati, ma non potendo, come dire, usare altre cose della signora che non sono di mio interesse, la uso dal punto di vista culinario. Ma lei non è che cucina, mo guarda. Io voglio in un altro ambito, Parenzo, invece. Io, cara, guardi, io la ringrazio molto. Come disse Montanelli a Berlusconi, domine non sundin. Però scusa, Sherry, di a Parenzo quali sono le tue misure, cioè quanto no, sei... Ma non mi interessa niente. No, aspetta, attenzione, Sherry. No, Giuseppe, perché poi si spaventa, invece l'uomo novizio va preso con dolcezza, va fatto rilassare. Ma non me ne frega niente. Ma con Salvini ci andresti? Mai. Piuttosto suora. In compenso vorrei essere la prima first lady, quindi moglie di Renzi, ma purtroppo c'è già Agnese. Beh, questo mi pare un sogno un po' irrealizzabile. Sì, abbastanza irrealizzabile. Sì. Ma scusa, tu hai misure oltre i 20 centimetri? Sì, sono una piccola Barbie, però con grandi misure di seno e di altro. Ma questo non importa. No, perché ma non importa. Chi è del genere importa. Importa quello che dici, importa tutto. Ti do un abbraccio, ragazzi, dobbiamo chiudere. L'irresistibile attrazione, grazie Sherry, tornerai sicuramente. L'irresistibile attrazione degli uomini per i trans, spiegata da Sherry De Rossi in maniera perfetta, direi. Perfetta, con cui chiudiamo la serata e ci sentiamo domani. Ciao. Vabbè, comunque mi avete rotto il cazzo. Come vi ho detto, andatevene a fanculo tutte e due. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.